ieri sera, che le due prime riflessioni erano dedicate, diremmo, a porre il problema. In fondo è ecumenico, è inutile che crediamo che l'ecumenismo sia un lusso, diventerà una necessità di confrontare ormai la posizione cristiana con una molteplicità di cose analoghe, anche dei concetti, nonostante che noi vogliamo avere un concetto univoco, l'analogia dei concetti per l'estensione di varie applicazioni è un dato di fatto. Quindi ieri sera direi l'estendersi in orizzontale, diremmo, di esperienze che in qualche maniera o sono o si interpretano o vengono interpretate come messianiche. Questa mattina un discorso che io pensavo più in profondità, dove la radice antropologica, ecco, viene presa sul serio per vedere come, e difatti è venuto fuori questo problema, un'esigenza di demitizzazione e di secolarizzazione del concetto di messianicità diventa importante. Addirittura abbiamo visto Dio, e il tema grosso era quello, Dio potere, Dio, ecco. E addirittura nel fronte dello specchio quasi negativo, dove la creatura, abbiamo sentito, proprio quando sente addirittura di essere essa stessa sempre sotto il giudizio di Dio, anche se ha una vocazione importante, castigata, arresto, nelle situazioni di perifericità, direi invoca la capacità di capire un Dio più universale e non soltanto più trascendente. Vediamo le applicazioni alla Chiesa, al cristianesimo in generale, quindi adesso non leggo le domande perché sono così vaste questa volta che le intuite, le ho fatte capire ieri sera, e abbiamo visto come in generale poi ogni dibattito qui si concentra su uno o due problemi. Comunque i problemi li abbiamo già enucleati un po' ieri sera, adesso li riprenderà forse dal suo punto di vista Don Bianici per iniziare questa fruttificazione del discorso, che non, ripeto, deve concludersi qui, ma qui a bomba atomica noi concentriamo per poi estendere. Don Severino, se vuoi dire. Dal punto di vista ecclesiologico, credo che sarebbe utile prendere il nostro tema dividendolo in due, così come viene fatto dal titolo stesso, popoli messianici, cioè possiamo mettere in recto messianici, in obliquo popoli, oppure mettere in recto popoli, in obliquo messianici. Nella prima ipotesi, se mettiamo in recto messianici e in obliquo popoli, allora quale è il problema ecclesiologico che si ha? E credo fondamentalmente, concentrando al massimo, il problema dell'escatologia e del filiasmo, cioè la prospettiva di un futuro definitivo, salvifico e definitivo, come diceva Fabris ieri, e la prospettiva della terra, cioè della incarnazione dell'escatologia, dell'incarnazione storica dell'escatologia. E questo è un problema che coinvolge fortemente tutto il senso della Chiesa e della sua presenza nel mondo. Vorrei qui anche ricordare un momento storico, un episodio, molto più che un episodio ovviamente, di crisi di questo problema in Lutero, con la dottrina dei due regni e questa tesi della impenetrabilità del regno della giustizia, del regno terreno, del regno della mano sinistra di Dio, da parte del regno della misericordia. Cioè i due regni, quello della mano destra e della mano sinistra di Dio, sono disomogenei, anche se sono tutti e due nelle mani di Dio, ma sono disomogenei. Allora la reazione di Lutero contro la rivolta dei contadini, ai quali scriveva, ricordatevi che si è liberi nello spirito, ma non nei beni. Allora abbiamo lì probabilmente un episodio abbastanza emblematico di una crisi in questo rapporto tra incarnazione del futuro salvifico nella storia e visione della definitività del futuro salvifico. Qual è il nesso tra i due? È problema vasto, trattatissimo, direi logoro anche per certi aspetti, ma potremmo qui ricordarne in rapporto più stretto alla categoria del messianismo alcuni punti. Abbiamo parlato stamattina di popolo, di nazione, e potremmo qui ricordare, per esempio, cosa significa questa esperienza estrema messianica legata al martirio, cioè il martire della patria, i martiri della patria, tutta l'ideologia della patria nell'Ottocento, che ha al suo centro il tema del martirio per la patria, o il martirio per l'aldilà, martirio per Dio. Ma in mezzo a questi due, il martirio per la patria o il martirio per l'aldilà, potremmo anche metterci il martirio per la Chiesa, cosa significa? Ricordate nell'assassinio della cattedrale i dubbi insinuati dagli uccisori, perché Becket è morto. In fondo è morto per orgoglio, per difendere i diritti suoi, che gli diceva della Chiesa, egli ha voluto spalancare le porte, no? Allora, questo punto estremo legato al messianismo e alla figura del Messia o alla concentrazione emblematica del messianismo nel martire, ecco, con i problemi delicati che può comportare nel senso della Chiesa, nella coscienza della Chiesa. E qui anche il tema della sofferenza, credo che convenga che sia introdotto non tanto con la preoccupazione di ieri, cioè se sia o non sia costitutivo del messianismo, ma piuttosto nella dialettica interna che esso comporta. Cioè, per la Chiesa, nella spiritualità della croce e nella sua prospettiva messianica, si tratta di una esaltazione o di un superamento della sofferenza? Mi è capitato di porre più volte un problema di fondo, radicale, alla prospettiva della teologia della liberazione, per esempio di questo tipo, cioè è una prospettiva che di per sé sembrerebbe doversi presentare come essenzialmente provvisoria, perché la teologia della liberazione raggiungerebbe il suo scopo nel momento in cui non avrebbe più bisogno di esserci, cioè quando la liberazione è compiuta. Allora, i poveri devono essere beati o devono sparire dalla faccia della terra? Quindi, questo problema della liberazione, della speranza del futuro, della incarnazione storica del futuro, è di fronte a queste sue antinomie. Ecco, vorrei suggerirle per la discussione. Così, il messianismo allora... Nel messianismo allora è interessante osservare e studiare il tema della sofferenza, oppure in qualche maniera sostituirlo con il tema della conflittualità, cioè che sia il problema della conflittualità. E quale conflittualità? Allora, la Chiesa vive nella storia certe conflittualità ecclesiastiche nei confronti del mondo. Vedi per esempio la conflittualità delle crociate o altri modelli simili di rapportarsi al mondo dove c'è una forte conflittualità e un'esaltazione della conflittualità e anche un martirio di tipo ecclesiastico, il martire della Chiesa, il martire della confessione cattolica, per esempio, nei confronti del martire del cristianesimo. Allora, è una conflittualità tra Chiesa e mondo, oppure questa conflittualità è in movimento, deve essere mossa, contiene dentro di sé antinomie dialettiche in mezzo alle quali muoversi e sulle quali indagare con attenzione. Questo nei confronti della Chiesa e anche nei confronti del popolo, in fondo. O quando il povero che ha bisogno di essere liberato non è un popolo, ma è dentro un popolo. E qui ritornerei sul tema dell'America Latina, che è stato ricordato stamattina da Rizzi, il quale appunto diceva, mi trova in piena concordanza, lì per esempio non abbiamo un messianismo di tipo nazionalistico. Certamente la distinzione tra le nazionalità in America Latina o non esiste o è molto minore di quella che esiste in Europa, per esempio, no? Dove anche l'identità india in fondo, tolto il Perù e la Bolivia per esempio, è pochissima cosa, ma anche in Perù e in Bolivia il moto di liberazione del popolo povero è il moto di liberazione del popolo povero più che del popolo indio. Almeno questo negli spazi ecclesiali di più. E c'è, per esempio, in Sendero Luminoso, nel movimento terrorista peruviano, allora una insistenza maggiore sulla identità india e quindi anche, per esempio, un moto di ritorno al paganesimo per il recupero dell'identità del popolo Quechua e Aymara, no? Ma in tutto il quadro complesso dell'America Latina sembra piuttosto che sia il popolo povero, piuttosto nell'accezione che Frane diceva di origine marxista, ma che indubbiamente ha anche origini più vaste, cioè il popolo povero, il popolo oppresso, che non è nazione, tutto sommato, ma è fatto continentale. Allora, se questo non suggerisca dal punto di vista della sociologia, il problema del luogo dove situare, dove vivere la conflittualità. E questo elemento è importante in ordine alla configurazione messianica dell'azione della Chiesa. L'altra ipotesi, se in recto invece che messianici mettiamo popoli, allora un altro ordine di questioni si apre. E da questo punto di vista Riti mi ha un po' preceduto e mi ha portato via un po' di materiale, lo ringrazio. Cioè questa preoccupazione anche di vedere chi sono allora i popoli, perché se parliamo di rapporto fra Chiesa e popoli, ma c'è la grossa difficoltà del definire l'altro termine, mentre il termine Chiesa è molto più facilmente definibile, evidentemente, anche se anch'esso ha i suoi problemi. Che cos'è un popolo? Che cos'è una nazione? Oppure oggi, nella situazione d'oggi, almeno nella società industriale avanzata, si tratta più di parlare di culture che di popoli. Il mio intervento di stamattina anche su questa perdita della memoria storica, per esempio, nella società industriale avanzata, dovrebbe allora farsi trasferire forse il tema del rapporto Chiesa-popoli con altri temi, o farcelo dire in altre categorie. Qual è allora, quale configurazione assume il confronto, il rapporto tra Chiesa e ciò che tradizionalmente si poteva dire i popoli? Qui è il problema dell'inculturazione, è il problema della vera cattolicità, in fondo, che viene fuori. Da questo punto di vista, allora vorrei dire, sottolineare il bisogno di un vigile senso critico. Mi confesso, e questo lo sento un po' come un peccato anche, però riesco difficilmente a liberarmi dalla paura che il nostro interesse intorno a questo tema, questa paura l'avevo anche quando a Bologna lavoravamo, no? Resti intrappolato in fenomeni di ideologia. In fondo, per esempio, l'interesse di Sartori, che dal suo punto di vista del contenuto io condivido pienamente, anzi mi sembra che è una stimolazione di cui abbiamo estremo bisogno, cioè questa apertura ecumenica della teologia e della Chiesa, attenti che non diventi una specie di interesse previo che ideologizza il nostro discorso. Allora, poiché questo dobbiamo raggiungere, allora dobbiamo camminare così e così. Quindi un vigile senso critico per l'ideologia in agguato, perché il dossier anche me ne porta gli esempi, tutte queste esperienze di messianismi storici contengono fortissimi elementi ideologici, soprattutto nell'Ottocento. Vedi, anche a Bologna, per esempio, abbiamo avuto un'esperienza interessante, perché studiando il tema di Babele, dei popoli nella Bibbia, no? È venuta fuori l'esistenza di due letture del tutto contrapposte del fatto Babele. Cioè, allora, o la dispersione dei popoli è punizione, quindi la divisione dei popoli è il negativo, l'ideale nel disegno della creazione della salvezza è l'unità dell'umanità. Oppure il contrario, esiste una tradizione ermeneutica che vede invece nell'unità il peccato, perché l'unico labbro, diceva Bori, mi pare, chi faceva relazione, e perché erano di un unico labbro, pare che questo erano di un unico labbro non sia erano di un unico linguaggio, ma che uno solo parlava, cioè era l'accusa agli imperialismi nascenti. Allora l'unità sarebbe il peccato, mentre la divisione, la dispersione delle lingue è semplicemente la difesa che Dio fa dell'ideale nativo. Allora questa doppia lettura di Babele non denuncia forse una storia ermeneutica fortemente ideologizzata nell'accostarsi al tema, a seconda dell'interesse che sia in un senso o nell'altro. Penso a una preghiera che una volta si diceva, l'ho sentita in una caserma, una volta in una messa, la preghiera delle forze armate, non so se ancora si dice, cominciava così, quella che sentì io: o Dio, che volessi l'umanità divisa in popoli. Dove è una delle due letture di Babele direttamente applicata, ed è interessante il contesto nel quale viene applicato, il contesto militare. Di fronte a questo, ecco, bisogno di un vigile senso critico, ecco, credo che in ecclesiologia abbiamo seriamente bisogno continuamente di ritornare comunque a un punto di radice, che è il non sei giudeo né greco di Paolo, no? E questo senso e questa acquisizione che la Chiesa lentamente ma decisamente fa del suo distacco da Israele, in fondo è esattamente su questo punto. Cioè, non siamo il popolo della legge, siamo il popolo della fede. E se siamo il popolo della fede, allora possiamo vivere sotto qualsiasi legge. Allora la possibilità di vivere sotto qualsiasi legge diventa caratteristica della Chiesa. E ricordo un testo di Origene citato da Ugo Rahner in quel libro sul problema politico del cristianesimo primitivo, testo di Origene nel quale si domanda come mai nella riunione di Gerusalemme di Atti 15 si fanno delle proibizioni su delle minuzie, non mangiare la carne soffocata, eccetera, e non si proibisce l'omicidio, non si proibisce. E Origene con un salto di prevenzione dei tempi, di una laicità veramente impressionante, dice: è perché questo non era compito della Chiesa, questo è compito dell'imperatore. La legge è laica, la Chiesa non ha bisogno di avere sue leggi, la legge è laica, vive, e il popolo del tertium genus vive sotto qualsiasi legge. Un'ultima cosa e chiudo, a proposito allora del problema dell'inculturazione, di questo rapporto Chiesa-Popoli, da affrontarsi con vigile senso critico, credo che non sia utile distinguere allora. Il problema dell'apporto nuovo che l'identità culturale di un popolo deve rappresentare per la Chiesa. Dall'altro problema, che cosa la Chiesa rappresenta per l'identità di un popolo. Due problemi credo che siano molto diversi, e utilmente vanno detti. Nel primo credo che è facilissimo proporre una tesi affermativa, positiva, da portare avanti sulla linea dell'ispirazione di Sartori, mi sembra importantissimo. Che del resto è in fondo legata al concetto cattolico della tradizione e alla posizione antifondamentalista. Cioè non c'è possibilità di trasmissione di fede se non dentro il rivestimento della soggettività e della cultura del testimone della fede. E quel passo della Dei Verbum dove si dice che c'è sempre una nuova percepio rerum et verborum traditorum, significa che non c'è trasmissione di fede se non attraverso una nuova percezione. Allora l'arrivo alla Chiesa di un nuovo soggetto, sia individuale sia collettivo, è arrivo di un nuovo modo di vivere la fede, di un nuovo modo di vivere la fede. E quindi qui l'apporto dell'identità di un popolo, se identità di un popolo c'è, o di qualsiasi altro tipo di identificazione del nuovo soggetto che accede alla fede, non può non portare, se vogliamo, sfuggire al fondamentalismo, che in fondo è un ritorno alla religione della legge, perché sarebbe la parola scritta una volta per sempre, Dio ha parlato in arabo per l'Islam, no? Questa parola di Dio che è quella che sta nella parola scritta, nella lingua in cui è stata scritta, se vogliamo superare questo livello del fondamentalismo, non resta alternativa che l'accoglienza appunto della, come apporto alla fede, apporto alla vita della Chiesa, della soggettività di ogni nuovo soggetto che arriva, anche collettivo. In quanto l'apporto che la Chiesa darebbe all'identità di un popolo, ecco allora qui il problema invece è molto direi più complicato. Che cosa significa questo apporto se la Chiesa è capace di vivere sotto qualsiasi legge? Allora mi porrei in posizione critica, suggerirei subito delle posizioni critiche, per esempio a questa tesi del Papa attuale, abbracciata così con entusiasmo da Comunione e Liberazione, per esempio, sull'identità cristiana dell'Europa. Cioè, come è proponibile un discorso sull'identità cristiana dell'Europa? Accettiamo il dato, cioè se questo non contiene una posizione decisamente reazionaria di ritorno al Medioevo. Cioè, se c'è l'accettazione del moderno e di tutta l'esperienza moderna, della nascita dello Stato laico, liberale, democratico, e dell'intreccio, dell'innesto della Chiesa con le conformità sociali e nazionali, passando rigorosamente attraverso la mediazione della libertà della coscienza, che cosa allora a questo punto significa la identità cristiana dell'Europa? Ho una domanda come quella del Papa a Parigi: Francia, cosa hai fatto del tuo battesimo? Che senso può avere una proposizione di questo genere? Il battesimo della Francia. O la sorte del battesimo della Francia. No. Mi domando se questo non è rimettere in questione il punto di partenza originario dell'identità cristiana, dell'identità della Chiesa, che appunto non è l'identità dell'ebreo, che è l'identità della legge, il fenomeno dell'ebreo che può essere anche ateo ma osservante, e la interrogativa che negli ambienti ebraici si fa sul fatto se l'ebraismo è o no una religione. E la possibilità di vivere l'ebraismo senza fede, no? Da un lato, allora lì sì, c'è questa identità tra la tradizione religiosa e poi la legge, e l'identità di un popolo e di una nazione al limite di uno Stato, o l'identità cristiana, che è sempre l'identità della fede, e quindi è un cammino diverso. Se questa diversità debba essere accentuata, radicalizzata, oppure ci possono essere degli intrecci, ecco, questo è il problema. Il messianismo di un popolo cristiano o di un popolo non cristiano, allora sì, entra in gioco. Per esempio, allora, il messianismo dei cristiani maroniti o il messianismo degli sciiti o dei palestinesi. Allora, il messianismo irlandese interessa la Chiesa perché sono cattolici o perché sono i poveri oppressi dai ricchi protestanti? Quando in Libano, per esempio, allora la parte maronita in fondo è la parte ricca, e la parte di un popolo non cristiano invece la parte povera. Cosa significa allora il messianismo di un popolo? Per la Chiesa, nei confronti dell'identità della Chiesa. Ossia, qui siamo in un tale complesso di antinomie che fa venire la voglia di cavalcare il problema e di porsi su un altro piano. Bene, grazie anche per la brevità sufficiente, insomma, ecco, 20 minuti, buona. Allora abbiamo quasi un'ora di possibilità di dibattito, abbiamo visto riemergere alcuni temi, io vorrei provocare un po' di nuovo qualcuno, abbiamo sentito il problema della trascendenza e della universalità da ieri sera, e qui soprattutto in quest'ultima battuta Don Dianic, il problema da una parte il nuovo nella sua identità apporta qualche cosa alla Chiesa, quindi c'è il problema dell'incarnazione, dall'altra l'identità della Chiesa come tale sembra essere una trascendenza che non può ricollegarsi con l'identità di ogni popolo. Quindi praticamente il problema della trascendenza e della storia, di cui ieri sera si è fatto discorso, diventa più concreto, insomma. Vivere la Chiesa come trascendenza per poter essere incarnazione in ogni popolo. E poi abbiamo recuperato il problema dell'ebraismo, allora vorrei qui provocare coloro che hanno particolarmente questa sensibilità di interferire su questo discorso dell'ebraismo, e poi il problema della sofferenza, della conflittualità, come l'ha interpretato. Sono alcuni dei punti. Nel mio foglio avevo anche, direi, sottolineato l'importanza di non restare prigionieri di un concetto di popoli che si lega soltanto a, diremmo, a vastità, addirittura l'Europa, più che essere un popolo, l'Europa è di tanti popoli, no? Allora, il problema dell'incarnazione del cristianesimo riferibile, no? A un'entità continentale dove i popoli, addirittura come nell'America Latina, non hanno nemmeno raggiunto un'identità nazionale, che è un problema sentito da loro, non avere un'identità nazionale, e nemmeno qui in Europa dove il nazionalismo addirittura è così frazionato, ma ci sono anche a livello di culture, allora, segmenti antropologici dove un qualche cosa di, direi, di omogeneo che unifica e dà un'identità quasi a un soggetto collettivo è data anche forse dentro una stessa nazione come l'Italia, o meglio patria come l'Italia. Ecco, alcuni problemi che sono emersi e che diremmo noi potremmo riprendere, però anche altri, quello della missione per esempio l'abbiamo lasciato cadere, ecco, bisogna forse riprenderlo. Ecco, allora diamo avvio a questo dibattito e confronto. Io Fabio, ma preferisco che parino altri, continuando il voto di astinenza fatto da Rick. Un altro termine. Lui ha fatto l'astinenza. Allora, solo di puntualizzazione su due problemi di particolari, non di fondo, sul quale mi riservo di intervenire più avanti, nel pomeriggio, cioè sull'ambivalenza del messianismo. Non ambiguità, ma ambivalenza sì. E il primo è l'ambivalenza dei poveri e l'ambivalenza della universalità, cioè di Paolo, cioè due riferimenti biblici che mi interessa di... Perché i poveri collegati con la sofferenza, anche quello ambivalente, è sofferenza da esaltare misticamente o sofferenza da superare, ma il caso più esposto in maniera palmare, eclatante, è i poveri da conservare o i poveri da superare. E qui è l'ambivalenza della beatitudine intesa non nel senso dell'intenzione del testo biblico, ma nella lettura così abbastanza diffusa, no? E credo che i poveri, nel linguaggio evangelico, ha già questo doppio aspetto, cioè della miseria, del limite, sia essa malattia o peccato o morte, alla sua forma estrema. Ora, questo credo che è fuori dell'intenzione di Gesù e della grande tradizione biblica da esaltare e come ho intenzione di esaltare il limite. Quando si dice beati i poveri, non viene detta beata la miseria o la povertà, nel senso di privazione. Questo è, credo, in una qualsiasi lettura biblica, anche se è stato fatto, beato te che soffri, beato te che sei malato, disgraziato. E di Pongo dice molto bene: Dio o Gesù vuole troppo bene i poveri per esaltarli nella loro povertà. Allora, in questo caso, nella linea biblica è il superamento della miseria. E il motivo non è perché poveri, ma perché il regno siete beati. No, non perché poveri, ma perché il vostro. In genere si dimentica sempre questa seconda parte, dice beati. Allora, potremmo dire il povero. E come colui che nella condizione di miseria si apre a Dio, ma questo è già un superamento della miseria, in questo caso il povero è destinatario del regno. E qui allora è la libertà dal possesso, dall'accumulo, che viene proposta come attitudine da perpetuare, non la privazione, ma la libertà, che è diversa dalla privazione, libertà dall'accumulo mamona, no? E viene proposta allora l'altro aspetto della povertà. C'è già un'ambivalenza, e qui lo stesso vale per la croce. Non viene mai esaltata la sofferenza se non in letture morbose o mistificatorie. Nonostante la sofferenza e la croce rimane fedele, Dio sceglie la solidarietà per far saltare fuori dalla situazione di privazioni, non con gli strumenti del potere. E qui sarà un problema dell'ambivalenza del messianismo. Se il messianismo non vuole diventare imperialismo, forse l'alternativa è quella di una di relazioni diverse, quindi diverse immagini di Dio dell'uomo. Questo è il problema che riprenderò eventualmente. Il problema della universalità e della inculturazione, cioè quando Paolo in Galati 3:28 dice: non c'è più giudeo, né greco, né barbaro, né schiavo, né libero, né uomo, né donna. Quest'ultima la riprende in Prima Corinzi. Tuttavia nel Signore, nell'uomo senza la donna, nella donna senza l'uomo, questa non elimina le diversità, ma elimina quelle diversità discriminanti, cioè quelle che fanno dell'ebreo l'eletto che, per cui tutti gli altri sono dannati, fa dell'ebreo il candidato per diritto alla salvezza in forza del legame nella carne, alla discendenza di Abramo, e non per grazia, non per libera scelta. Allora io anche qui distinguerei, c'è un'universalità che non elimina le diversità. L'universalità dà senso alla diversità come identificazione, elimina quelle diversità discriminanti, quelle che sono contrarie alla libertà e dignità dei singoli. Per due precisazioni solo. Il problema più grosso di Israele sarà ripreso. No. Don Donato. Se ci sono anche altri dopo che vogliono. Dunque, ma, sì, dopo c'è qualcuno del... Boff, bravo, sì, Boff, bravo. Forza. Allora adesso diamo Don Donato. È forte. Fate solamente due domande alla La prima è questa. Cosa ne pensa dell'antichità al fine di un'autentica culturazione, inculturazione, di passare attraverso a una deculturazione, cioè attraverso una serie di identificazioni di risorse che è negativo nelle singole culture? Sembra che anche riferendosi alla tesi di Tommaso e al suo contesto, questa sia un'azione indispensabile al fine di arrivare a concludere il discorso che è accennato. Seconda cosa, mi sembra che il concetto di trascendenza della volta sia proposto in termini molto astratti, che un'autentica trascendenza sia passata attraverso una autentica, diciamo, cattolica. Se è così, come non è possibile, come è possibile fare in modo che la trascendenza della fede cristiana debba necessariamente non essere astratta, concretizzarsi e possa concretizzarsi da stessa in diverse culture, in diverse esperienze di storia, in diverse esistenze collettive o individuali. Dunque la prima domanda vuole accentuare il concetto di deculturizzazione, mi sembra necessario integrare il discorso. E la seconda domanda vuole mettere in evidenza, mi sembra, la necessità che una trascendenza debba farsi, deve sollecitarsi attraverso la distanza della cattolicità. Giuliati? Che sono emerse da questa discussione tutta una serie di stimoli che tolgono quello che abbiamo detto in continuità in quello di stamattina e di ieri, ma forse anche mi stimola a elaborare alcune proposte di temi interpretativi. Mi pare che la prima cosa che emerge, proprio da tutti i casi storici, la diffusione del fenomeno messianico, perché è stato citato il fenomeno del messianismo presso il giudaismo, si potrebbe pensare anche Cromwell e i puritani, che sono messianismo all'interno dell'Inghilterra, della Scozia nei confronti della Chiesa anglicana e via di questo passo. E altrettanto si potrebbe parlare dei messianesimi secolarizzati, sono anche l'istanza di Voltaire e di Diderot nei confronti della Chiesa, è un'istanza messianica secolarizzata, e qui la Chiesa viene vista con la tradizione come fratellino. Però quello che di nuovo c'è una situazione di conflittualità che sembra essere matrice di messianismo, in cui qualcuno si sente oppresso da qualcuno più forte contro i suoi diritti, e poi c'è anche un'ambiguità, perché dalla rivoluzione francese che genera il messianismo ai vari movimenti anche africani che a nome della liberazione generano delle o anche in America Latina, vediamo lo stesso, in Guatemala, la decisione per fini di potere all'interno dei gruppi che sono in realtà, per farmi venire in mente il discorso di Milani e di Pietra, quando stesso finché sei fondando la porta, non facendo più Pietra, appena tu ti trasformi in padrone, io ti tragherò. E allora credo che dobbiamo chiederci che cosa è che genera questa ambiguità. Come mai ci sono dei gruppi, degli aggregati che si trasformano da sofferenti in liberatori? Perché credo che la situazione di sofferenza è generalizzata. Quello che a me interessa chiedermi è come mai ci sono dei gruppi che passano da un'attesa latente, da un messianismo passivo, da una disponibilità al messianismo, a un messianismo militante e attivo. E questo potrebbe anche essere alla radice della spiegazione, per esempio, della diffusione di certi movimenti liberatori, come il cristianesimo all'interno dell'impero romano, dove pure c'era un'attesa di liberazione. E se vogliamo interpretare in maniera pluralistica, secondo la lezione di Max Weber, anche la diffusione del cristianesimo sotto la forma iberica nell'America Latina, non possiamo tirare in campo soltanto i fattori economici, politici e imperialistici, perché sarebbe un po' facile, ma ingenuo, e poi dimenticheremo che lo stesso cristianesimo tramite i missionari sono andati ben oltre il Cile, perché si parla fino in Arizona e Nuovo Messico, le missioni, le due missioni del Arizona, il fatto stesso che nel Perù ci fossero dei missionari dalla parte degli Inca, insieme agli Inca, che resistevano all'invasione sono fatti storici, basta da chi è stato in Perù e me ne sono raggiunti là. Allora, come mai allora ci sono dei popoli o dei aggregati, chiamiamoli, etnici, culturali, economici, che assumono un ruolo attivo, sentono in proprio il compito e il dovere, forse per la gratitudine a una liberazione che si sono sentiti, che hanno ricevuto il dono, a dover porre agli altri, proporre agli altri la liberazione, portarla alla vera forza, diventando reali dominatori, e altri che semplicemente stanno in attesa, e qui forse potremmo introdurre allora due clausole, due proposte interpretative. Primo, forse il fenomeno di Cristo la Chiesa, forse una presenza, un meccanismo sociale e culturale che permette il passaggio all'etnismo attivo, a popoli sofferenti ad essere fattori di liberazione e si sentono poi in dovere anche per la gratitudine, nel certo senso, di esserlo per gli altri come loro, è la presenza dell'istituzione. Intesa però non come organizzazione, che è un uso allargato, ma nel senso comune, come luogo di aggregazione e di salvaguardia dei valori. Quando c'è questa presenza, sembra che, e questo si nota, mi pare, all'interno dei credi religiosi partiti dal ceppo cinetico, chiamiamolo, ebrei, cristiani, delle varie tendenze, e musulmani, e poi là dove cristianesimo, ebraismo e musulmanesimo, anche secolarizzato, ha attecchito o ha portato una ventata. È stato interessante fare la storia, per esempio, in Cina, di tutti i movimenti contadini del secolo scorso, dove i vari messie di liberazione erano quasi tutti, avevano forse eredi delle missioni, finanziatori delle missioni, o con contaminazione di lo stesso Mao Zedong, tramite il nazismo, che molti dicono è un messianismo laicizzato. Ecco allora, la funzione dell'istituzione chiesa. E poi un'altra domanda, visto che germinano tutti dalla matrice, diciamo così, monoteistica, se non ci sia ancora più a monte il concetto di un Dio persona, che parla e interviene, con il quale si può avere un dialogo. E che non ci sia il pericolo che il messianismo si trasformi da messianismo liberatorio in strumento e ideologia di repressione, quando al posto dell'atteggiamento religioso tipico nei confronti dell'alleanza, che è Dio che parla, e il credente si sente non padrone di Dio, ma si sente servo umile che risponde con il sì, e l'atteggiamento anche di San Paolo sulla strada di Damasco. Quando a questo tipo di mentalità subentra l'idea del possesso, che è tipico della superstizione, forse allora quella è la radice per che la divinità si trasformi in oppressione. Menin. Però c'è Box, poi c'è Prandi, poi De Santis, Carmine. Poi se c'è qualche altro. Tu, pure. Pronto, allora Menin. Sul tema delle missioni, qualche cosa, ma si può dire forse a partire dalla dottrina dei due regni di Lutero, ma la grossa questione, mi pare, che si ponga a noi oggi come missionari sia il problema di trovare l'identità della Chiesa in rapporto a qualche cosa. E la dottrina dei due regni di Lutero può darci un aiuto. In rapporto a che cosa? Noi diciamo in rapporto al regno, solitamente. Ma non sappiamo bene che cosa sia questo regno, perché poi se si fa un esempio, non so, in Indonesia il cristianesimo sta entrando presso una popolazione particolare, come quella dei Bata, e non entra invece tra i giapponesi, non entra presso altre popolazioni islamizzate. Per quale motivo? Mi chiedo io. E allora la Chiesa comincia ad identificarsi con un popolo in particolare rispetto ad altri popoli concorrenti nella creazione della nuova nazione, che è l'Indonesia, ed entra in un conflitto a volte catastrofico, spaventoso, la Chiesa, all'interno della costruzione della nazione. E allora mi chiedo, se la Chiesa avesse coscienza, una coscienza sempre critica, autocritica, del traguardo, del referente, dove specchiarsi il regno di Dio, allora forse il modello di missione potrebbe eventualmente cambiare, modificarsi. Alcune missioni verrebbero automaticamente meno. E questo crea non pochi problemi. Un altro problema mi viene da una domanda. Noi parliamo, forse consapevolmente, senza renderci conto, di evangelizzazione dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina. Se il Santissimo dire, non so, dai musulmani, adesso ci mettiamo a islamizzare l'Europa, quale sarebbe la nostra reazione di fronte a questo progetto di evangelizzazione islamica dell'Europa? È una domanda forse banale, forse, però potrebbe mettere in questione e mettere in conflitto tra di loro i missionari, gli agenti della missione, ma anche, direi, le forze della Chiesa. Con quale presunzione noi parliamo di evangelizzazione dell'Asia e dell'Africa? Tanto per parlare di due continenti dove il cristianesimo è entrato poco, più in Africa e meno in Asia. Per quali motivi poi è entrato meno in Asia? Il problema cristologico agitato ieri mi sembra che sia determinante, perché il problema cristologico mi pare faccia confluire insieme la trascendenza e l'incarnazione. E io mi chiedo, a partire dal problema cristologico, non potremmo rivedere i due dogmi fondamentali del cristianesimo, cioè quello della creazione e quello della redenzione, tenendoli maggiormente presenti in correlazione tra di loro anche nella evangelizzazione del mondo, in quanto che abbiamo forse fatto la missione a partire dalla redenzione, e quindi abbiamo assolutizzato un dogma rispetto ad un altro, l'abbiamo compreso indipendentemente dall'altro. Quindi siamo più figli della croce e solo della croce, in che modo? Nella nostra azione missionaria. E qui così tutto è diventato una gente importante, missione. E termino con un'altra puntualizzazione. La scrittura si diceva bene che la transizione della fede avviene solo attraverso una nuova percezione e quindi anche attraverso il passaggio attraverso una nuova soggettività, un nuovo popolo e la sua soggettività. Il sensus plenio della scrittura si pone in grosse questioni. Quando raggiungeremo il sensus premio della scrittura? Noi riteniamo forse di averlo già raggiunto, ma suggestioni ci vengono proprio dalle missioni in questo senso. Il sensus premio della scrittura lo raggiungeremo solo quando avremo incluso in questo senso la perfezione di tutti i popoli, di tutte le, non oso dire nazione, ma di tutti i gruppi umani. E qui forse Tannenberg potrebbe darci una suggestione interessante, a partire dalla fine della storia. Grazie. Intravedo una specie di ritorno alle origini e di concentrazione dopo momenti di dispersione. Ieri abbiamo sentito da Fabris la sottolineatura per l'originalità cristiana delle due tematiche, trascendenza e universalità. Forse sono un po' astratte, ma in realtà le vedo adesso riprese, quando, anche con il discorso di Terlinde stamattina, anche di ieri sul teismo, sul monoteismo. Cioè, praticamente la domanda, diremo, radicalizza il problema fino a questo punto. Chi ha il vero senso del Dio trascendente? La trascendenza non è forse strettamente connessa con la universalità? Quanto più il Dio diventa solo mio, anche dentro il cristianesimo, monopolizzato, il Dio espresso nella mia cultura, e non è più Dio di tutti, quello non è più il vero Dio, ecco il monoteismo. Quindi si potrebbe quasi rovesciare i due termini nella tensione. È proprio a livello concreto l'incarnazione che è possibile a tutte le culture e i soggetti che evidenzia se si ha la fede nel Dio trascendente. E allora da questo punto di vista, ecco il tema della missione, il tema di stamattina, il parlo dei poveri. Cioè il nuovo atteggiamento missionario potrebbe raggiungere i livelli di cui parlava Prandi addirittura, cioè dove, diremmo, si è talmente convinti che il Dio è il Dio di tutti, che sei convinto ancora di più allora che la tua incarnazione concreta, storica del cristianesimo è piena di ambiguità anch'essa. Allora andando verso l'islamismo, le altre culture, praticamente il tuo discorso, in termini dialogici, tu parti da un concetto di povertà della tua incarnazione, la sottoponi alle verifiche di un incontro con altri poveri che forse appunto tu guardi come ricchi, devi guardare adesso come povertà ricchezza messianicamente. Allora in questo mutuo confronto tu non è più che vai a esportare, diremmo, il valore, ma in nome della trascendenza di Cristo, trascendente, questo è la singolarità di Cristo, tu ti metti in atteggiamento non più di dominio, non più di prepotenza, tu hai parlato anche tu da umile missionario, non senza più altre presunzioni nei confronti con gli altri. Pongo il problema, come dire, che a livello missionario, poi di stile concreto, si verifica tutto il discorso teoretico. Tutto il discorso teoretico. E si ricade proprio in quel problema radicale in cui è stato posto da Bill, ma anche da Don Fabris. E poi ieri con il tema del monoteismo. Ecco, la trascendenza, quando diventa autenticamente vissuta? Quando diventa sì o no l'affermazione che il Dio è il Dio di tutti, ecco l'universalismo, Boff, Prandi. Io avevo prima intenzione di intervenire un po' sul tema della storia lineare e circolare, no? Ma tante cose, allora lascio fuori quello dentro in quest'altro tipo di discorso. Perché se Federico mi pare che potermi agganciare, mi va riprendendo anche il potere di ideologia in agguato, parlare, ti chiedevo. Io mi domando se sia un pericolo questo, o se invece non c'è semplicemente la realtà. Noi siamo sempre nella ideologia. Se ideologia è il proiettare tutto a partire da una parte, questa è la situazione che abbiamo denunciato, quando abbiamo dichiarato di essere soprattutto loro, parlare di popoli, concretamente, significa prendere proprio la parte per, come quella a cui si parte per giungere al tutto. Quindi significa esplicitamente assumere la posizione ideologica. Dal resto, io credo che il Vangelo non lo troviamo mai fuori dei Vangeli, la tradizione mai fuori delle tradizioni e il Cristo mai fuori di Gesù. Ecco, questo mi pare che sia tutta una serie di osservazioni abbastanza rilevanti. Quindi anche la radice biblica è ideologica. E la prima impressione è questa. La Chiesa può vivere sotto qualsiasi legge. dire concretamente? Qual è, direi, la verifica storica di questa affermazione? Non c'è una riserva continua, è catalogica, quanto vuole, ma quindi si traduce anche sempre in riserva determinata storica nei confronti delle varie leggi nelle quali la Chiesa è chiamata a incarnarsi. Quindi io credo che dobbiamo chiaramente assumere questa nostra posizione, che è una forma della cedizione della povertà, no? Noi partiamo da una ideologia. Anche il parlare di limite, di nuovo, no? Il limite per la situazione del popolo, anche questo è ideologico. Perché? Addirittura un minaccio di essere un'ideologia abbastanza pesante, se non si rende conto che il limite è un concetto neutrale che invece ha come referente una forma di oppressione. Ecco, addirittura il termine ideologico si carica ancora di più. Bene, allora, partire da questo. Quali possibilità ci siamo? Mi pare che sia questo. Il problema è di scegliere delle ideologie produttive e non delle ideologie negative. Non il saltare fuori, presumere il saltare fuori dalla politica. E qui allora mi è nato il tema di fuori, il tema della mia attitudine. Accetto tutto quello che hai detto, ti fa fuori. Ricordo che il tema del regno è questo, si può definire ovviamente così. Il regno consiste nel fatto che Dio ti fa governo, Dio ti fa vince, Dio ti fa redentore, Dio ti fa liberatore. E poi allora, io non per una ragione di verità assoluta e assolutamente afferrata, ma per una scelta precisa, di cui mi assumo tutta e la responsabilità e la opzionalità, no? Ecco, io scelgo per i poveri e riconosco come ragione la mia fede nel fatto che i poveri sono beati perché Dio ha scelto la loro vita, perché Dio si è messo dalla loro parte. E poi allora io parto immediatamente, no? in una prospettiva della mia situazione ideologica, della mia scelta ideologica, però tutto perché Dio è da questa parte, perché io in questa scelta, che non si giustifica assolutamente di fronte ad altre scelte, ecco, Dio di fatto si pone il valore dell'evento, e in questo caso allora acquista universalità, acquista trascendenza, ma come processo continuo, come promessa di apertura all'infinito, ecco, all'infinito il cui termine è Dio stesso, e di qui allora si recupera tutto il discorso di fare sulla universalità e sulla trascendenza. Vabbè, grazie, ha inserito l'elemento escatologico. Allora, Prandi. Io volevo, dentro dell'intervento di Menendez, si serve una parentesi, un grande intervento di Vienna, cioè quando lui parla del rapporto tra identità di un popolo e Chiesa, come nuovo modo di percepire la fede da parte della soggettività di quel popolo, no? Questo pone dentro quello che è, qui è tutto il problema. Se noi leggiamo la Genesi, ecco, mi permetto di dire che la Genesi dice una serie di cose che sono tanto suggestive quanto fatte, storicamente fatte. Mi permetto di essere provocatorio nel dire che la Genesi è un accumulo di affermazioni storicamente fatte. Nel senso che quando la Genesi dice che tutte le culture, tutte le religioni vengono, è ciò che vi è di buono, qui c'è già un atteggiamento di discriminazione tra il buono e il cattivo, vengono assunte nella verità di Cristo, ecco, questo è un falso storico. Questo va, io sfido un qualsiasi missionologo o ecclesiologo che mi dica che si è realizzato il postulato della gente quantomeno dal 508. In qualche zona dell'emisfero extra-occidentale, extra-cristiano, in cui veramente ci sia stata una capacità da parte di quella soggettività culturale di accogliere attraverso il proprio linguaggio, attraverso la propria cultura, attraverso la propria concezione del mondo, attraverso la propria terminologia, attraverso il riutilizzo delle proprie figure e delle proprie figure trascendenti, in un certo modo, la capacità di recuperare il messaggio, no? Come se da una qualche parte del mondo ci fosse stata una collettività alla De Nobili che in un qualche modo ha fatto questa operazione. Ma questo no, mi pare. Ma la gente non si pone sul factum, sul faciendum, direi il forse il problema è fattibile. Ecco, ma è proprio questo fattibile, è fattibile. Ma è proprio questo il problema, che i teologi cominciano, continuano a parlare del facendum, mai del fatto. In questo senso no, io non voglio, il problema non è in termini di accuse, non in termini di rapporto tra missioni e colonialismo eccetera. Secondo me se, e lo ripeto, forse ho detto ieri, qualcosa di più profondamente radicale, che pone in questione il concetto stesso di universalità del cristianesimo. Cioè io mi chiedo se, malgrado ad Abidjan e in altri posti ci siano con i teologi africani, facciano degli sforzi tremendi pur di cercare di recuperare elementi della tradizione africana, delle tradizioni africane da poter riutilizzare, ecco, io mi chiedo se ci sia la possibilità, perché di fatto oggi non lo è indicato, se non in una fase carismatica iniziale, ora parliamo dei nettoriani o di alcune comunità minoritarie, ma dico, ma come fenomeno di massa, come fenomeno globale, come fenomeno programmato da propaganda fine, in termini istituzionali, ecco, io mi chiedo dov'è che l'etica tradizionale, la cultura tradizionale, le modalità tradizionali, l'identità culturale nella sua insieme antropologico, culturale, religioso, eccetera, è stata in grado proprio di recepire, di far proprio, di rivedere, avendone parlato da Roma, ma questo finalmente tra parentesi, ecco, e poter inventare, cosa che io sto qui aspettando con la bocca aperta, con la speranza di poter, a reinventare, ecco, secondo la propria soggettività storica, la propria unicità, no? La propria singolarità, un'espressione cristiana che possa dire là si è verificata in quel contesto la universalità cristiana, non come facendo, ma come fatto. Ecco, io, e questo è il problema che pongo, che va, secondo me, molto più radicale del rapporto tra regioni e colonialismo, del fatto che i missionari facevano un tempo tavola rasa, che poteva essere un'espressione di una superiorità culturale vissuta in termini crudi imperialisti, ma anche nel modo più ricco, più profondamente cristiano, più profondamente sentito dalla povertà altrui, con la quale tu accosti la tua povertà, ecco, se ci sia la possibilità di questa trasformazione interna. Io me lo chiedo, finché non è vero, ripeto, la gente è un falso storico. Mi scusi, grazie. Ma ringrazio moltissimo di questo intervento, proprio moltissimo. Io direi, senza passare subito al factum che lei auspica, io dico che come il teologi, e io lo sento come vocazione ecumenica, cioè sono convinto che l'ecumenismo è la svolta più grande della storia della Chiesa. In questo senso, che se non arriviamo subito al fatto, almeno dobbiamo discutere il factibilis, lasciamo stare il faciendum, accumulando dati di fatto, se esistono, lei dice che non ce ne sono, vedere di studiare meno il faciendum e più il factibilis entrando nel concreto. Però io direi che qualche cosa c'è, ecco il dialogo ebraico-cristiano, gli sforzi fatti da quegli amici giudeo-cristiani, cioè che riscoprono il primo cristianesimo sepolto, poi soffocato dal cristianesimo incarnato, stanno a indicare che c'è un factum lì, si dovrebbe riscoprire il factum di un cristianesimo che si è veramente inculturato, è nato, si è sviluppato e ha durato fino forse al IV secolo in qualche filone giudeo-cristiano. Poi un secondo fatto di un cristianesimo che si è inculturato nel mondo nostro. Adesso dobbiamo moltiplicare finché non avremo incarnazioni, eccetera. Lei dice non ce ne sono ancora di fuori, può darsi che bisognerà che i missionari facciano delle discussioni. Appunto, anche questo. No, ma bisogna moltiplicare. Non basta uno, anche a livello tomistico, per arrivare a dimostrare un concetto universale, bisogna partire almeno da tre concretizzazioni totalmente diverse tra loro. Due solo ne abbiamo finora, ma bisogna andare avanti, questo è giusto, cioè noi dobbiamo finalmente fare, ecco perché la missione deve diventare adesso più, diremo, a dialogo, abbiamo fatto una settimana intera nel segretariato proprio su questa missione come dialogo, dove bisogna ricevere e incarnare veramente. Quindi il discorso io lo accetto veramente, perché per me questo risvolto pratico diventerà la verifica, se no facciamo il discorso del faziendum, e almeno io dico, almeno facciamo sul factibilis e proponiamo alcune piste perché si amplifichino i casi del factum, però due ne abbiamo, ecco. Bisogna partire da quei due, e quindi quando avremo resuscitato un po' di più i giudeo-cristiani, allora probabilmente faremo qualche cosa di... È una storia dolorosa. Va bene, ecco. Allora, sentiamo, scusate di questo intervento, di Sante. Allora, appunto, di Sante, vediamo se... Vorrei riprendere il discorso del rapporto tra leggi e fede. Io sono andato molto a pensare, effettivamente, da parte mia, nel corso degli anni. Da una parte, la fede come assenza di legge, dall'altra, la legge come assenza di fede. Che ripropone il modello, e poi siamo al cuore dell'epistemologia, perché abbiamo il rapporto tra il cosiddetto Antico Testamento e il Nuovo Testamento, il rapporto tra Israele e Chiesa, il rapporto tra sinagoga e Chiesa. Quindi siamo proprio nel cuore dell'epistemologia. Ora, il modello proposto, almeno come lo propone gli anni, è non soltanto la contrapposizione, che è il modello, uno dei modelli classici che è prevalso poi nella teologia, interpretare il cristianesimo, la chiesa, la fede in contrapposizione a il modello della contrapposizione, che è un modello che poi domina fondamentalmente ancora in teologia, cioè dire il Nuovo Testamento appunto si oppone in quanto il Dio della legge, il Dio della legge, è un discorso che si trova comunemente, il Dio del Vangelo e il Dio del Vangelo. C'è invece, ecco, sul discorso il modello del superamento, è stato molto scritto, cioè dire la fede in modo superato. Io mi domando se noi dobbiamo, qui dobbiamo, secondo me, uno dei punti cardini della teologia, elaborare un modello che non sia né del superamento né tantomeno della contrapposizione. E qua è il modello che io chiamerei della comunicazione tra i vari dialogo. Con gli altri comunicati, teoria del dialogo, ma cosa? Dove allora non si oppone fede e Torah, ma si oppone la fede ad una Torah che si vuole autorizzare, come si oppone anche la Torah ad una fede che si vuole autorizzare. E dove viene a mancare uno dei componenti, mentre il vero modello è quello dove le due tendenze convivono verso quella unità in modo che nessuna parte ha, ma verso due stesse. È il modello della comunicazione, della integrazione. Questo secondo me pone però un problema intrinseco, perché chiaro, noi dovremmo realizzare questo modello della comunicazione con i popoli, con gli altri. Ma il problema intercrediale è dove c'è comunicazione dentro la Chiesa. Cioè dire, chi parla nella comunità ecclesiale? Chi gestisce la parola? Non siamo forse 90 persone sordi e soltanto alcuni parlano? Ecco, mi domando come una Chiesa al cui interno non c'è comunicazione, e intendo comunicazione nel senso proprio che a parlare sono alcuni soltanto, ci si trova in determinati vertici, mentre il popolo, tra virgolette, la massa sono proprio i muti. Ecco, come si può una chiesa intraecclesialmente non comunicante proporsi poi agli altri come modello di comunicazione? Questo dico, a Roma c'è un gruppo, appunto, che cerca di fare questo discorso, il gruppo della comunicazione, che se ne parla, che se qualcuno è interessato, questo ci lascia un libro della possibilità di ridare la parola ai muti. Il problema è poi la comunicazione intra e sociale. Ma c'è un numero di consigli, non chi ha diritto alla parola, chi ha la parola nella chiesa. Ecco, l'ultima cosa, non so, il discorso di faceva Brandi, il cristianesimo non è universale. Io direi che veramente il cristianesimo non è universale. Chi è universale è il Dio, è il Dio, è il Logos, per dire, ma c'è il Logos, è il Dio che si è incarnato nel cristianesimo come nella universalità pensiamo si incarna sempre e ovunque. Però mi pare molto importante questo, cioè non pensare che il cristianesimo sia la realtà da inculturare, non si cultura il cristianesimo. Questo è un primo particolarmente tecnologico. Si incultura Dio. Ma Dio che però è sopra il cristianesimo, lui che è una incarnazione. Si continua una volta che non è che dice queste cose. No, ma io devo avere un buttito per dire cose, insomma. Non so che senso abbia. Sì, che è Dio che è universale, ma il santone che non piaccia davanti a Giovanni Paolo II è gli dice col suo silenzio che non ha nulla da imparare da lui. Tipo, e allora qui dov'è? Non nell'Afghanistan. Come funziona? Sia del cristianesimo, della Chiesa, o di quel Dio di cui gli altri non hanno conoscenza. E perché non è possibile pensare che si debba tutti, anche per motivi appunto ideologici, pratici, valori pragmatici, andare alla ricerca di quell'elemento universale? Cioè, anche quando si fa il dialogo con i buddhisti, non si mette in primo piano il Dio o non Dio, ma ci sarà pure qualche cosa se lo sentono. Ma qual è la conversione? Beh, insomma, non è che quello di volere che ci sia. Sì, No. Perché ti alzi tu? Non tutti, ti ho detto che in realtà prima di venire avanti, la religione è essere, forse, richiedere un essere tramiti, e prima di essere tramiti, di essere oggetti di un atto d'amore di Dio, o che cos'è? Se noi siamo oggetti di un atto d'amore di Dio, io credo che tutti quelli che sono oggetti di un atto d'amore non possono che essere coscienti di essere oggetti di un atto d'amore. Io credo che ogni persona che crede non può fare a meno di credere di essere nel vero. Però se noi rovesciamo la prospettiva e io sono l'oggetto dell'alleanza, non sono una controparte, a me interessa relativamente poco che poi Interrotto, ma questo è il mio discorso di università è un discorso tra noi per purificare i linguaggi. È chiaro che è un buddista, ma ora non dirò dell'universalismo. In parola, è un di comunicazione, in qualora dovessi incontrarmi con un buddista. Nella comunicazione comunico alla mia realtà come lui mi comunicherà la sua, ed è il processo della nuova o del dialogo. E termino con la mia stessa impressione, soltanto Shura qui a Roma, proprio sul dialogo tra ebraismo, cristianesimo e musulmanesimo. Cioè lì, che ha questa breve identità, la sua esperienza personale storica, che dice, ma non è che non dobbiamo predicare né Dio dei cristiani, né Dio degli ebrei, né Dio dei musulmani. Noi dobbiamo predicare che gli uomini si possano volere bene, si possa costruire una umanità, gli uomini fratelli. E mi pare questo potrebbe essere una cosa scusate, però. Va bene, allora ecco l'idea dell'etica della secolarizzazione eventualmente. Pura! Io volevo prendere la domanda fondamentale. Quale riflesso sulla concezione della Chiesa è ecclesiologica superstizione? Però collegandomi con gli interventi precedenti, direi che a questo punto allora. E diventa messianica la valorizzazione della chiesa locale in termini molto concreti, come Carmine di Santa adesso si richiamava, no? La comunicazione, la chiesa locale in quanto momento creativo e soggettivo della tradizione, cioè là dove l'obiettivo cristiano e il soggettivo culturale religioso di un popolo possono impattarsi, dove anche le conflittualità eventualmente possono essere risolti in maniera costruttiva, perché la chiesa locale è a dimensione umana, o quasi. E in questo senso, allora, credo che anche la cattolicità debba essere intesa in una maniera un po' più umile, no? Come costellazione di chiesa e sorelle, in un vai e vieni dove ognuna ha qualcosa da dare, qualcosa da ricevere. E non un modello prefabbricato, ma in un senso di storicità maggiore. Grazie. Allora, no, qui c'è dunque Goffi e Cassese. In mi riallaccio a tre interventi prima, cioè si spesso riferimento soggettivo della fede, a Goffi che dice che la posizione ideologica è ineludibile, anche a Franti che ci dicono che il cristianesimo può essere universale. e che Sartori propone come effetto del comunismo come una svolta più grande. E io vorrei fare circa per passare una domanda che è questa. E riterrei, ma riterrei non con un convincimento, come domanda, no? Anche se la faccio come informazione, che si debba in certo modo sorpassare la posizione stessa della teologia. Arriva il suo presente e ha attuato questo ecumenismo in una forma nuova. Quando dice che è andato nel deserto, no, questo. Sì, ma non nel deserto, è andato a Nasram in India. Poi c'è stata l'esperienza che è il deserto. Ah, sì, beh. E il presidente dice che ho abbandonato il Dio 1, il Dio primo, eccetera, sono entrato nell'esperienza. Cioè, abbandonare ogni forma complice di ideologia, ogni forma di ideologia, che è veramente ideologia. Cioè, solo nell'esperienza io posso avere qualcosa di universale, che mi avvicina a Dio. Allora, se invece mi metto nel dialogo, come giustamente è già una svolta profonda, come è stato detto, no? Nel colloquio ideologico, teologico, sempre forte l'universale. Non mi sono neanche all'inizio. E sempre un dialogo, domando, e sempre un dialogo tra particolari, tra aspetti ideologici, tra interessati, cioè al di là. Domando se questo, che è una posizione a cui si orienta la stessa spiritualità, se è profondamente, se questa è una via che può essere praticata. Un cassese. Ma mi inserisco proprio ad opera. Nella caso di una certa dimensione della vita. Chissà forse se il mondo della teologia non debba anche forse fare più attenzione dei fenomeni che vengono anche nel mondo di vita. Ecco, parte del volontariato internazionale, ci mette anche i cristiani, ma appunto. Per dire che esiste anche un mondo di volontariato internazionale che è legato anche alla Chiesa, è presente. Sono 300 persone importanti che lavorano in questo mondo per più di 2 anni, minimo 2 anni, con delle grosse anche negatività da un punto di vista anche operativo, anche i limiti, anche lì che prima di certa povertà. Però mi pare che il suo uomo, ecco, costruisce il tutto, cioè attua un ecumenismo di fatto. Il volontario che si mette nella storia di questo popolo vive la realtà di credere, che vogliamo chiamare la povertà di vita, dentro la tentazione di vedere anche l'Africa, non solo nel rispetto, ma vuole nell'accettazione della cultura, di cultura che siamo anche credere. E con quel popolo cammina verso un re, vogliamo di liberazione, vogliamo di superamento delle difficoltà storiche, vogliamo di dire. Però dico anche questo, che ritorna qui dopo 2 anni, 7 anni, 8 anni, e immette una nuova cultura anche. Io direi di guardare anche questo fenomeno, non perché ci faccio parte, ma perché secondo me ci dà anche una visione di una accettazione di una missione che secondo me è ora, ma nel vero senso della parola, quindi nel modo della visione. Grazie. Mi permetto ancora di sintetizzare. Mentre si parlava ho visto che c'è una, direi, configurazione di questa scala discendente. Pareva a un certo momento che il problema numero uno che ci viene proposto da questo dibattito è quello di riscoprire quella vera trascendenza che veramente non soltanto permette ma promuove la vera universalità di tutti i soggetti. Cioè il problema che abbiamo posto è il problema della soggettività. Accettare pienamente la soggettività di tutti gli uomini, per cui non solo alcuni sono soggetti e altri sono invece soggetti, ma tutti devono essere soggetti. Allora abbiamo visto Dio trascendente, universale. Però dopo, ecco, Cristo, ma anche questo deve essere problematico, in che maniera il Cristo, che non è più la trascendenza soltanto dell'aldilà, ma trascendenza che si è fatta incarnazione, poi meno la Chiesa, cioè discendendo da Dio, Cristo, la Chiesa, e fino a entrando le Chiese locali, la trascendenza può essere ottenuta sempre meno, attraverso attese quindi dell'universalità. Però abbiamo visto adesso che il dibattito ci ha riportati a quello che viene chiamato, diremmo, il modello secolarizzato, dove io però intravedo, ecco perché insisto sull'ecumenismo, come primato anche dal discorso di Goffi, è quello del metodo, cioè prima di arrivare a proporre dei fatti, arrivare a dei fatta, è il problema del possibile, dei fattibili. Ora, è improponibile, diremmo, un discorso di esperienze nuove, di universalismo che si concretizza in soggetti che esistono, se non c'è un metodo, ecco la comunicazione, ecco il metodo ascetico, diremmo, spirituale che propone anche Don Goffi. Cioè bisogna che prima dentro le chiese si instauri un metodo, allora in mente anche a livello missionario, De Foucault e gli altri, i missionari hanno detto chiaramente che allora accettano ormai di entrare in quel metodo, dove non si fa missione, ma si fa presenza per ascoltare, per allenarsi a capire. Cioè il problema del metodo per arrivare a questa trascendenza dell'universalismo deve impegnarsi a trascendere noi stessi, ma non per svuotare i contenuti, cioè uno deve vivere incarnata la sua fede, ma ecco la difficoltà di acquisire un metodo in cui pur incarnando la fede si diventa, diremmo, capaci della comunicazione per l'universalismo. Mi sembra che questo riassuma un po', in cui ogni soggetto, prima di tutto, proprio per affermare la sua identità, deve imparare a diventare trascendimento di sé. Scusate, questo tu sei... chi aveva chiesto la parola? Anche tu, Lodi? Tu una battuta, tu, Don Luigi? Sì. Io sono parroco e quindi cerco di portare anche il tema... Però è anche insegnante di dogmatica, quindi è parroco ma anche teologo. Ecco, che la pagina 18 e 19 dello schema di Consolatore è questo rapporto che deve essere tra la cultura e la Chiesa. Ecco, il rapporto tra la cultura e Chiesa, popolo della fede. Ecco, che cosa vuol dire questo in pratica, per esempio, nella diocesi? Cosa vuol dire in pratica nella tua parola? Noi sappiamo che oggi la Chiesa, la società, la parrocchiale, è una Chiesa che annuncia, quindi la catechesi, è una Chiesa che celebra, è una Chiesa che fa la carità. Ma io credo che il modo con cui sono vissuti questi elementi non fa altro che creare una Chiesa come una setta in fondo. Perché? Perché siamo staccati veramente dalle culture, dalla cultura, dalla vera esperienza. Io delle volte mi chiedo, ma che rapporto c'è fra quello che sento, fra quello che annuncio con la cultura operaria, per esempio, con la cultura dei giovani, non so, con le esperienze varie. I catechismi che noi abbiamo in mano sono l'espressione di un'inculturazione oppure no che esistono? Ecco perché io penso che certe parole non sono più di moda, ma non so, il dialogo, il confronto, l'inculturazione, sono delle parole che veramente creano una chiesa nuova, un modo nuovo di fare la parrocchia, di fare la chiesa. Grazie. Adesso do la parola a Don Severino e poi andiamo a pranzo con questo antipasto. Ma io vorrei dire due cose, se riesco a stare in queste due. Quanto tempo? Cinque minuti. Una prima di carattere storico. Sono d'accordo abbastanza con quello che diceva Sartori, che la grande svolta del nostro tempo è l'ecumenismo, ed è una svolta assolutamente epocale, con una situazione del tutto inedita, storicamente. Perché? Perché in fondo veniamo da una fase storica che intanto ha innestato il cristianesimo proveniente dal giudaismo, con la successiva rapida morte e ammazzamento della chiesa giudeo-cristiana, dentro un mondo molto ecumenico, il mondo dell'ecumenismo ellenistico, nel quale è nata la nazione cristiana, e questa è la terminologia che si è usata, la nazione cristiana. È un concetto di unità così forte che tutti conosciamo, tutta la, la tradizione che interpreta l'Islam come un'eresia cristiana, per esempio. Cioè che non è capace di attribuire una identità originale neanche all'enorme fenomeno islamico, per una condizione culturale. No? E la convinzione, per esempio, che l'evangelizzazione del mondo è compiuta dagli apostoli è rapidissima. Agostino diceva, in fondo, all'Africa pare che ci siano ancora alcune tribù che non sono state raggiunte dal Vangelo. E Tommaso, per porre la questione teologica della salvezza degli infedeli, doveva ipotizzare un vir in silvis nutritus. Quindi il concetto della coincidenza totale dell'umanità con la nazione cristiana, questo ha determinato 1500 anni di storia cristiana. La vera crisi di questa situazione viene con l'epoca moderna, con il Rinascimento, sia per la scoperta del mondo nuovo, sia per la rottura della omogeneità cristiana in Europa. Quindi l'atteggiamento della Chiesa nei confronti dei popoli e delle nazioni è o di trasferimento, di conglobamento dei nuovi popoli dentro l'unica società cristiana, che è il dato di partenza, al di fuori delle cui categorie non si può pensare, non si riesce a pensare. Sono dei rari precursori illuminati, ma sono delle assolute eccezioni, no? Quelli che pensano diversamente. E nei confronti della nascita degli stati nazionali in Europa, l'atteggiamento di difesa dell'ecumene cristiana, in fondo. Allora, oltretutto, un fenomeno come il papalismo, accanto a tutte le sue motivazioni deteriori, ha anche questo tipo di motivazione. Per esempio nella battaglia contro il gallicanesimo, no? E anche nella fase della restaurazione, in fondo, la restaurazione come aspirazione in fondo alla conservazione, alla ricostruzione dell'impero, che corrisponde come entità civile alla Chiesa cattolica, mentre le nazioni comportano con sé i nazionalismi, portano con sé il pericolo delle Chiese nazionali. Un pericolo che del resto non è astratto, perché l'ortodossia, per esempio, ne soffre tuttora. Abbiamo sentito dal convegno di Bologna abbastanza mirabile e inattesa comunicazione di Meyendorf, il quale appunto metteva in luce il regionalismo delle chiese, delle autocefalie, con tutto questo problema delle chiese nazionali. Allora, da questo punto di vista, l'introduzione del tema del dialogo e dell'inculturazione si presenta, mi pare, come un elemento veramente nuovo, salvo che noi andiamo a caccia lungo la storia di singoli piccoli episodi molto legati a singole personalità. E ecco perché credo che non c'è da meravigliarsi che tutta l'impostazione della questione avvenga oggi in un bisogno di creatività e di invenzione che è assoluto. Un'altra cosa che volevo dire è sulla teologia, teologia è ideologia o no, eccetera, è questo problema del monoteismo, del politeismo, eccetera. E forse abbiamo dimenticato, ed è un po' un peccato, potremmo ancora riprendere stasera forse il discorso, il tema della Trinità, che al nostro congresso dell'ATI è stato trattato in un gruppo anche con rapporto all'operetta di Peterson, di Peterson sulla teologia politica del monoteismo, no? Cioè effettivamente è vero che il monoteismo è un appello alla trascendenza e all'unità, però il monoteismo si aggrega e si cuce con l'idea dell'incarnazione senza una sufficiente teologia trinitaria, ecco che abbia, allora ecco fondato l'imperialismo. Perché se l'unico Dio è incarnato, e io l'ho visto, e se il Cristo non è il Figlio incarnato, ma è Dio incarnato, allora è chiara la crociata, è chiaro l'imperialismo, è chiaro che Dio combatte con noi contro gli altri, e chi non accetta Gesù Cristo, che è l'incarnazione di Dio, è completamente tagliato fuori. Extra ecclesiam, nulla salus, anche se uno desse la vita in martirio per Dio, ma non è nella Chiesa, andrà all'inferno con Concilio Fiorentino. Quindi il recupero del tema trinitario credo che oggi avviene nella teologia proprio in questo sforzo anche di di superare per quanto è possibile gli elementi di ideologizzazione del monoteismo. E questo, per esempio, la Lumen Gentium lo fa inizialmente nei primi numeri, poi dopo il tema viene abbandonato, purtroppo. Però il tono non la gente. Ma nei primi numeri, questo è interessante perché in fondo la Ecclesia Abel è la conclusione del rapporto della Chiesa con il Padre. Allora, se la Chiesa non è la Chiesa di Cristo solamente, ma è del Figlio incarnato, la Chiesa del Padre, allora non c'è solo la Chiesa dell'incarnazione del Figlio, ma c'è anche la Chiesa di Abele. La Chiesa di Abele è la Chiesa di tutti i figli del Padre. Il rapporto c'è allora la Chiesa della professione di fede nel Cristo incarnato e la Chiesa di Abele. E poi il tema dello Spirito. Allora, il tema dello Spirito che è esattamente che garantisce la possibilità, offre la possibilità di una fede nell'incarnazione che non permetta il possesso di Dio, del Dio incarnato. Ancora. Non permette il possesso del Dio incarnato. Perché c'è lo Spirito, è bene per voi che me ne vada, così vi manderò lo Spirito e si entra nella nuova economia. Bene. Grazie, allora adesso andiamo spossessati di beni spirituali per impossessarci degli unici che possono diventare proprietà privata, i beni materiali. No, anche voi per i beni materiali. Gli unici, gli unici, gli altri. Lasciamo qui, no?